Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il Friuli Venezia Giulia conta il numero più alto rispetto al resto d'Italia di infermieri pro capite. Il report presentato dalla regione viene commentato dal presidente dell'Ordine degli Infermieri e dai sindacati. A incidere, dicono, le buone prassi di assunzioni fatte in passato, ma anche la scarsa presenza di strutture private rispetto alle altre regioni italiane. Giudici dalle 11 riuniti in camera di consiglio per decidere sulla sentenza per l'omicidio del giovane Robert Trajkovic da parte di Ali Kashim. Affollato l'esterno della Corte d'Assise di Trieste, mamma, papà, fratelli e amici della vittima attendono la lettura della sentenza. Si era spacciato per il capocantiere di uno stabile e si era introdotto in un'abitazione dove aveva strappato oggetti preziosi a una donna, arrestato dai carabinieri di Trieste, un cittadino kosovaro di 45 anni. La polizia di Udine ha arrestato un uomo e una donna, marito e moglie, che avevano sottratto 200.000 euro a un udinese interessato all'acquisto di una grossa e inesistente partita di test anti-Covid a buon prezzo. Impresa e intelligenza artificiale, la nostra regione è quella che ne subisce l'impatto maggiore. Siamo andati a vedere l'esperienza di un'azienda meccatronica di Codroipo, all'avanguardia nell'impiego di alte tecnologie, fra cui il Cobot, il robot collaborativo. Meno musica e più sanzioni, il comune di Trieste cambia le regole della movida, riduce le ore in cui è consentita la musica all'esterno dei locali pubblici e inasprisce le sanzioni per chi viola le prescrizioni. Alla scrittrice Annie Ernaux il premio La storia in un romanzo, il conferimento a Pordenone il 16 settembre nell'ambito di Pordenone Legge. L'autrice, premio Nobel per la letteratura nel 2022, terrà un incontro con il pubblico sui legami tra il romanzo e la storia. Conferenza concerto ieri sera al Verdi di Trieste per presentare la prossima stagione. 7 titoli di teatro musicale e uno di balletto. Si parte il 2 novembre con la Manon Lescaut di Puccini, diretta da Gianna Fratta. Altro titolo di richiamo, il Nabucco di Verdi, diretto da Daniel Oren. Ai nostri microfoni la velista triestina Francesca Klapcic, da ieri prima italiana ad aver vinto la Ocean Race, la regata che in 9 difficilissime tappe parte da Alicante e fa il giro del globo per tornare a Genova. Buongiorno dalla testata giornalistica regionale, ai microfoni Daniele Lettig e Antonio Cagliazza. La regione dunque conta il numero più alto rispetto al resto d'Italia di infermieri pro capite. Il report era stato presentato ieri dalla regione e oggi abbiamo chiesto un commento all'Ordine degli Infermieri e ai sindacati. Un sistema sanitario pubblico ancora molto forte rispetto alla presenza del privato, molto più radicato in altre regioni, in parte spiega perché il numero di infermieri in Friuli Venezia Giulia in rapporto agli abitanti sia più alto rispetto al resto d'Italia. In ogni caso molto lavoro resta da fare perché siamo il paese con il rapporto infermieri per abitante più basso d'Europa. Questa è la riflessione che trova d'accordo sia Luciano Clarizia, presidente dell'Ordine degli Infermieri, che Fabio Potocnik, segretario della FIALS-FVG, rispetto al rapporto diffuso ieri dall'assessore Riccardo Riccardi in terza commissione consiliare, che stima a 7 infermieri dipendenti di aziende sanitarie, ospedali o distretti ogni 1.000 abitanti, dato migliore anche rispetto all'Emilia Romagna e decisamente più alto rispetto alla media nazionale che è di 5 ogni 1.000 abitanti. Il report riferito a dicembre 2021 conferma che negli anni il Friuli Venezia Giulia, più che altre regioni, abbia investito molto e bene, ha aggiunto Clarizia, ma va fatto di più e lo conferma Potocnik. Se l'Italia conta 5 infermieri ogni 1.000 abitanti, tanti la Svizzera e la Norvegia ne contano 18, la Francia 11, 13 la Germania, 8,2 il Regno Unito. Purtroppo sono quotidiane, dice Potocnik, le segnalazioni per la carenza di infermieri e di altre professioni sanitarie che come sindacato riceviamo. È necessario che a livello nazionale si stabiliscano degli standard assistenziali al fine di definire il reale fabbisogno di professionisti e garantire un'adeguata risposta alla salute. Non ancora risolto, conclude Potocnik, il tema della remunerazione e dei carichi di lavoro. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. È attesa per le 13.30 la sentenza per l'omicidio di Robert Trajkovic, il 17enne ucciso in via Rittmeyer a Trieste l'8 gennaio del 2022. Molto affollato all'esterno della Corte d'Assise di Trieste, dove alle 11 i giudici si sono riuniti in Camera di Consiglio per decidere la pena da attribuire all'imputato Ali Kashim, 22enne all'epoca dei fatti. Secondo la ricostruzione dell'accusa, che ha chiesto la pena dell'ergastolo per il giovane, sarebbe stata la gelosia la molla che avrebbe spinto Kashim ad assassinare Trajkovic, strangolandolo con un lancio di nylon bianco trovato ancora stretto al suo collo quando il cadavere era stato rinvenuto nel sottoscala del condominio di via Rittmeyer. Trajković, infatti, aveva iniziato a frequentarsi da poco con la ex fidanzata di Kashim, una 19enne conosciuta durante una festa di Capodanno. I genitori, i fratelli e gli amici della vittima di Robert Trajković erano tutti presenti in aula. La madre del giovane, ai nostri microfoni, ha detto: «Ci aspettiamo l'ergastolo perché non vivo più, la mia famiglia è distrutta». A Trieste il Comune ha modificato le regole sulla Movida. La Giunta ha infatti approvato delle modifiche al regolamento Movida e anche al piano comunale di classificazione acustica. Le modifiche riguardano gli orari in cui è consentita la diffusione di musica all'esterno dei locali pubblici. Di venerdì, sabato e nei prefestivi infrasettimanali è consentita fino alle 24 e dunque eliminata la deroga prevista per il sabato e i prefestivi nel periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre. Resta confermato il limite delle ore 22:30 da domenica a giovedì. Inasprite le sanzioni per chi viola gli orari previsti, con l'introduzione, accanto alle sanzioni amministrative pecuniarie, nei casi di ripetute violazioni nel corso dell'anno, della sanzione accessoria della sospensione dell'attività di pubblico esercizio per un numero di giornate proporzionato alla gravità della violazione commessa. Prevista poi la riduzione del numero degli eventi musicali che i pubblici esercizi possono organizzare in deroga acustica nel corso dell'anno, portando da 14 a 6 le giornate. Si era spacciato per il capocantiere di uno stabile in fase di ristrutturazione per entrare in casa di una donna e rapinarla. Si tratta di un kosovaro 45enne identificato dai carabinieri di Trieste e ora rinchiuso al carcere del Coroneo. I fatti sono avvenuti alla fine di maggio. Una volta introdottosi nell'abitazione, l'uomo aveva aggredito la vittima strappandole dal collo delle catenine d'oro e tentando di impossessarsi anche della fede nuziale e di alcuni bracciali, prima di scappare minacciandola di morte. Quello stesso giorno l'uomo aveva compiuto una seconda rapina. Dopo aver seguito un'altra donna fino al pianerottolo di casa, l'aveva bloccata e le aveva sottratto una collana d'oro. Il 45enne è stato individuato e arrestato nel quartiere di San Giacomo. Un 34enne e sua moglie, una donna di 30 anni, sono stati arrestati dalla squadra mobile di Udine in quanto accusati di essere gli autori di una rapina messa a segno nell'immediata periferia udinese nel mese di luglio del 2022. I due sono fortemente sospettati di aver rubato denaro contante per circa 200.000 euro ad un soggetto al quale avevano proposto la vendita di 450.000 tamponi Covid a un prezzo estremamente vantaggioso. Il raggirato da prima adescato nell'abitazione degli arrestati era stato poi costretto con la minaccia di un'arma ad andare in auto in una zona appartata dove era stato derubato dei soldi. L'uomo è stato rinchiuso nel carcere di Udine, la moglie nella sezione femminile del Coroneo di Trieste. L'intelligenza artificiale sta impattando su imprese e lavoratori. Secondo Confartigianato, oltre 100.000 occupati in Friuli Venezia Giulia sono ad alto rischio automazione. Siamo andati a Codroipo, in un'azienda che fornisce alle imprese manifatturiere soluzioni di intelligenza artificiale, per capire come funziona. Da 22 anni sviluppa Codroipo sistemi basati sull'intelligenza artificiale e telecamere intelligenti che trovano applicazione nel mondo manifatturiero, nei processi di controllo qualità dei prodotti, tecnologia avanzata per supportare l'uomo nelle attività di basso valore, più usuranti e pericolose, come ad esempio il controllo qualità nel settore del vetro e dei laminatoi. Alessandro Liani è il titolare dell'azienda. Come funzionano queste telecamere? Queste telecamere acquisiscono le immagini dal campo, analizzano attraverso software di intelligenza artificiale la qualità del prodotto e determinano se questo è conforme o meno all'immissione sul mercato, sostituendosi all'operatore in quelli che sono lavori usuranti e pericolosi durante la giornata lavorativa, che rischierebbe malattie professionali dovute ad attività troppo usuranti. Voi sviluppate anche soluzioni che abbinano robotica a telecamere e intelligenza artificiale per mimare, per così dire, le azioni manuali dell'uomo, i cosiddetti cobot. Come funzionano? Sì, negli ultimi 5 anni, grazie anche a progetti europei, ci siamo occupati di abbinare tecnologie di robotica, nello specifico robotica collaborativa, visione artificiale e intelligenza artificiale per realizzare stazioni che mimano l'uomo nelle operazioni di controllo qualità di prodotti a geometria complessa, e questo ci ha permesso di ridurre notevolmente le attività usuranti dell'operatore nella manipolazione degli oggetti durante la giornata, lasciando però la parte di decisione e di aspetto intellettuale delle scelte che vengono prese all'operatore stesso. Lei è anche presidente della task force della principale associazione di ingegneri che si occupa di intelligenza artificiale a livello mondiale, con sede in America. Ecco, che cosa vi chiedono le aziende e verso dove si sta andando? All'interno di IEEE, che conta più di 400.000 associati, sono già da diversi anni in corso discussioni su dove l'intelligenza artificiale ci porterà, andando ad analizzare anche gli aspetti etici di questa tecnologia, e quindi stiamo sviluppando quelli che sono le strategie per mantenere l'uomo al centro delle attività lavorative, andando ad aiutarlo nelle attività appunto più usuranti e più a rischio di malattie professionali. Dunque all'uomo non si rinuncia? Assolutamente no, anche nel paradigma di Industria 5.0 l'uomo rimane sempre centrale all'interno delle attività lavorative. Codroipo, Lara Boccalonti, GR Friuli Venezia Giulia. Ancora impresa, il fondo Equinox ha acquisito dall'azionista unico Mauro Savio il 60% di Modul Block, azienda specializzata nella produzione di scaffalature e soluzioni di stoccaggio per la logistica, con sede a Pagnacco e stabilimento produttivo ad Amaro. Con l'ingresso di Equinox e il conseguente rafforzamento patrimoniale e finanziario, l'azienda, che negli ultimi anni si è consolidata ed è diventata un player di riferimento nel segmento della logistica e dell'automazione sul mercato italiano, punta a competere con i maggiori gruppi europei del settore. Modul Block ha chiuso il 2022 con un fatturato di 45 milioni e un margine operativo lordo di quasi 7 milioni. Il ricorso a fonti di energia rinnovabile è sempre più importante per le attività produttive, anche in un'ottica di risparmio energetico. In questo senso va l'iniziativa di collaborazione firmata oggi a Gorizia tra Iris Acqua e GSE, che da subito si avvarrà di energia fotovoltaica. Obiettivo sostenibilità per il protocollo d'intesa firmato oggi dalla concessionaria dei servizi idrici Isontina Iris Acqua con il gestore servizi energetici GSE, società partecipata dal Ministero Economia e Finanze. Un'iniziativa che consentirà a Iris Acqua di promuovere, nei 25 comuni in cui è attiva, iniziative di efficientamento energetico e integrazione delle fonti rinnovabili, promuovendola anche la riduzione dei consumi. A Paolo Lanari, direttore Iris Acqua, abbiamo chiesto qual è il primo progetto in programma. Stiamo ormai alla fase finale per quanto riguarda la costruzione di 2 mega nel nostro sito della Mucchetta, che è un partenariato pubblico-privato, e siamo nell'ultima fase, quindi penso che entro la fine dell'anno partiranno i lavori. È un progetto importante, noi siamo energivori, quindi andiamo in autoconsumo. Già 10 anni fa abbiamo fatto il primo impianto a Farra, che ci sta dando grandi soddisfazioni, quindi per noi è una priorità, è un asset importantissimo per un'azienda come la nostra, che consuma energia e deve anche produrla. Quali sono le fonti rinnovabili utilizzate in questo caso? La fonte rinnovabile è proprio l'energia solare, quindi evidentemente più siamo in condizione di poter produrre energia e meno sfruttiamo quelle che sono le risorse, diciamo, non corrette dell'ambiente. E pensiamo di farne ancora, se è possibile. Abbiamo un altro impianto molto importante e stiamo collaborando col Comune di Grado e anche col Comune di Gorizia per vedere le comunità energetiche, che sono un altro aspetto molto molto rilevante. Gorizia, Maria Spezia, TGR Friuli Venezia Giulia. Un convegno per fare il punto su 30 anni di trapianto di rene a Udine e in Friuli Venezia Giulia è quello che si è svolto stamattina all'ospedale del capoluogo friulano, alla presenza di specialisti arrivati anche da fuori regione. Sentiamo. Era la notte tra il 30 e il 31 luglio del 1993 quando fu eseguito a Udine il primo trapianto di rene in Friuli Venezia Giulia. L'intervento fu effettuato dall'equipe clinica chirurgica diretta dal professor Fabrizio Bressadola in collaborazione con gli specialisti della nefrologia diretta dal professor Giuseppe Mioni e dall'anestetologia diretta dal professor Alberto Pasetto, su un paziente di 59 anni della provincia di Udine in emodialisi da molti anni. Riuscì perfettamente paziente e il rene trapiantato funzionò al meglio. L'inizio dell'attività trapiantologica renale costituì un evento di grande importanza per l'intera sanità regionale. Da quel momento i pazienti del Friuli Venezia Giulia con diagnosi di insufficienza renale terminale sottoposti a dialisi non dovettero più recarsi fuori regione o addirittura all'estero per essere trapiantati come avevano dovuto fare per anni. Sono passati 30 anni da quella data, caratterizzati da significativi aumenti dei trapianti di rene, 55 quelli effettuati nel 2022 e 38 compreso quello di oggi nei primi 6 mesi di quest'anno. Giuliano Boscutti, direttore struttura dialisi, nefrologia e trapianti, azienda sanitaria universitaria Friuli Centrali. Come donazioni siamo, diciamo, tra le regioni migliori d'Italia, ci contendiamo questo titolo spesso con la Toscana. Una particolarità degli ultimi anni è il trapianto tra viventi. C'è stata una pausa anche legata alla pandemia, che ha creato da questo punto di vista dei problemi abbastanza importanti. Già l'anno scorso abbiamo ripreso l'attività in maniera importante, siamo arrivati a fare nell'anno 6 trapianti da vivente e quest'anno, in questa annualità, abbiamo già fatto 5 trapianti da vivente. Risultati eccellenti in regione dovuti sia all'intensa attività clinico-assistenziale a cui partecipa tutta l'azienda ospedaliera universitaria udinese, sia all'elevato numero di donatori d'organo reperiti in regione. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Quando sono da poco passate le 12.46 siamo al tempo, cielo da sereno a poco nuvoloso su tutta la regione. Queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 24 gradi, mare calmo con temperatura di 23 gradi e mezzo. A Udine 26 gradi, a Pordenone 25, a Gorizia 26 gradi e mezzo. A Tolmezzo 23 gradi, a Tarvisio 23 e mezzo, a Forri di Sopra Sappada 18 gradi e mezzo, a Piancavallo 16 gradi e mezzo. Sul Monte Lussari 15, sul Monte Zoncolan 14 gradi, sulla costa a Lignano 26 gradi e mezzo, a Grado 25, temperatura del mare nelle due località 25 gradi. Il primo weekend di luglio sarà caratterizzato dalla pioggia, con il tempo che migliorerà solo domenica, anche se non in montagna. Ma sentiamo le previsioni dettagliate da Gabriele Fasano dell'Osservatorio Meteorologico dell'ARPA. Nel corso del weekend la regione sarà interessata da una perturbazione atlantica, soprattutto tra venerdì e sabato. Da venerdì sera quindi saranno possibili delle piogge dapprima su Alpi Prealpi Carniche, poi dalla tarda serata o forse più probabilmente nella notte già di sabato delle piogge, dei temporali sulla zona, soprattutto sulla zona della costa. Nella giornata di sabato, che sarà una giornata instabile appunto a causa dell'arrivo di questa perturbazione, avremo nuvolosità piuttosto consistente un po' per tutta la giornata, forse con qualche schiarita durante il pomeriggio e piogge, appunto piogge e possibili rovesci che interesseranno un po' a fasi alterne le diverse zone della regione. Ci sarà una fase più probabile in mattinata, fino alla mattinata, durante la notte in mattinata, e poi di nuovo possibili piogge e temporali nel pomeriggio un po' su diverse zone. Per quanto riguarda la giornata di domenica, invece avremo tempo probabilmente un po' più stabile, soprattutto su Pianure Costa, sarà probabilmente una bella giornata, con cielo poco nuvoloso. In montagna invece avremo variabilità, soprattutto nel pomeriggio, con anche possibili dei rovesci e qualche locale temporale. Non si esclude che qualche temporale possa interessare anche le zone pedemontane. Va alla scrittrice francese Annie Ernaux, premio Nobel per la letteratura 2022, la 16ª edizione del premio La storia in un romanzo, riconoscimento nato su impulso di Crédit Agricole Italia in collaborazione con la Fondazione Pordenone Legge e Link, il Festival del giornalismo di Trieste. L'annuncio arriva nel mezzo del conto alla rovescia verso Pordenone Legge 2023, la fiera del libro con gli autori che da sempre ospita il premio, in programma quest'anno dal 13 al 17 settembre. Annie Ernaux sarà protagonista della cerimonia di premiazione sabato 16 settembre alle 18 al Teatro Verdi di Pordenone, nell'ambito della 24ª edizione del Festival. Alla cerimonia seguirà l'incontro con il pubblico sui legami fra il romanzo e la storia. Gli spettacoli, ieri sera la presentazione della stagione di opera e balletto del Teatro Verdi di Trieste. Nel cartellone direttori d'orchestra di richiamo e titoli di rara esecuzione. Una conferenza concerto al Verdi di Trieste per presentare una stagione ambiziosa, 7 titoli di teatro musicale e uno di balletto. Si parte il 2 novembre con la Manolesco di Puccini, diretta da Gianna Fratta. Podio al femminile anche per il flauto magico di Mozart in cartellone a dicembre sotto la bacchetta di Beatrice Venezzi. Altro titolo di richiamo, il Nabucco di Verdi, diretto da Daniel Oren. Il sovrintendente Giuliano Polo. Abbiamo cercato di percorrere un repertorio il più vasto possibile, naturalmente cercando di non riproporre i soliti titoli super rappresentati. A completare il cartellone, infatti, ci sono raffinatezze di Non frequente ascolto di Donizetti, Rossini e Strauss. La danza è rappresentata da Giselle, un classico dei classici, firmato anche quest'anno da Renato Zanella con il corpo di ballo del Teatro di Lubiana. Finale di stagione ancora sotto il segno della novità. Andrà in scena La porta divisoria, libretto di Giorgio Streller della Metamorfosi di Kafka, partitura incompiuta di Fiorenzo Carpi completata da Alessandro Solbiati, regia di Henning Brockman, un lavoro che verrà affiancato dal Castello di Barba Blu di Bartok. Andrea Vardanega, TGR Friuli Venezia Giulia. Lo sport. La velista triestina Francesca Klapcic è la prima italiana a vincere la Ocean Race, una delle regate più prestigiose e difficili. La sua barca è giunta ieri a Genova e dalla nostra redazione Ligure arriva al servizio di Stefano Picasso. Emozione ed entusiasmo per la barca americana 11th Hour Racing Team, che ha vinto l'Ocean Race 2023, il giro del mondo a vela per equipaggi, che per la prima volta in 50 anni di storia ha avuto il gran finale nel Mediterraneo, a Genova. Decisivo l'intervento della giuria internazionale, che ha riconosciuto 4 punti di riparazione allo scafo statunitense dopo che la barca era stata speronata e danneggiata alla partenza dell'ultima tappa all'Aia da Team Guyot. 11th Hour era in testa alla competizione prima dell'incidente con 33 punti e il risarcimento di 4 punti ha consentito al team a stelle e strisce di riconquistare la vetta della classifica. La barca è arrivata sui moli del waterfront poco dopo le 17.30, a bordo anche la 35enne triestina Francesca Klapcic, che è la prima italiana della storia a vincere questa prestigiosa regata. È qualcosa di incredibile per me, cioè, ovviamente sono voluti 50 anni perciò che un'italiana vinca questo evento e spero di essere la prima ma non l'ultima, più forte di tutto. E festa grande anche sul palco per la consegna del prezioso trofeo. Anche i nostri amici a quattro zampe soffrono il caldo. Stamattina nella trasmissione Buongiorno Regione un veterinario ha spiegato quali sono i rischi dell'estate per cani e gatti. L'estate è una bella stagione, ma può essere insidiosa per i nostri amici animali. Le alte temperature e gli ambienti afosi provocano ai nostri amici a quattro zampe diverse patologie, alcune delle quali possono essere molto pericolose, come il colpo di calore o un arresto cardiaco. Per questo motivo è importante conoscere quali sono le razze più a rischio. Il veterinario Jesús Catalán. Cardiopatici, gran parte degli scompensi cardiaci ce l'abbiamo in questi giorni e certi tipi di cani come i cani verghicefali, la cui conformazione della via respiratoria alta difficoltà già di suo il respiro, quindi col caldo vengono maggiormente colpiti. Dopo ci sono i rischi non legati necessariamente al caldo come le famose spighe, i forasacchi che si infilano nel naso, orecchie, nel bulbo oculare e rischi legati un po' al caldo, quindi aumento dei parassiti, dermatite da batterio, insomma un po' il caldo è un periodo impegnativo per gli animali. A volte è difficile capire quando un animale si sente male perché col caldo cominciano a respirare velocemente e con la bocca aperta. Questo perché gli animali che sono coperti dal manto peloso non sudano, o meglio sudano solo dalle piccole superfici come i polpastrelli e il naso. Quando questo è compromesso perché la temperatura è molto elevata, non basta compensare questo, quindi ci sono i colpi di calore, quindi il gatto, il cane vanno in scompenso respiratorio per questa tachipnea, questa difficoltà proprio a respirare per diminuire la temperatura. E quando succede questo cosa possiamo fare? Ma la cosa più importante è ovviamente diminuire la temperatura, quindi bagnarli abbondantemente con acqua fresca, rivolgersi al veterinario ovviamente. Ultimo consiglio, non lasciare mai il cane in macchina, anche se all'ombra, ma nonostante le continue campagne, c'è sempre qualcuno che continua a farlo. Trieste, Vaciuc, TGR, Friuli Venezia Giulia. Alcuni appuntamenti di oggi. Nell'ambito della rassegna Palchi nei parchi, questa sera a Bosco Romagno di Cividale del Friuli, in scena lo spettacolo Romeo e Giulietta, l'amore è saltimbanco, inizio alle 20.45. Alle 19.15 invece è organizzata una passeggiata naturalistica di un'ora alla scoperta del Bosco Romagno a cura del Servizio Foreste del Corpo Forestale Regionale. La Brigata Garibaldi Big Band sarà in concerto stasera alle 21 al Palazzo Gersiac di Villesse nell'ambito del 7° Festival itinerante della conoscenza, resistenze e bellezza. La Marina Italiana nella Guerra Civile Spagnola è il titolo dell'incontro di stasera a Monfalcone con lo storico Augusto de Toro, che illustrerà il ruolo avuto dalla Regia Marina nel corso del conflitto in terra iberica. Alle 18 nella sede dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia in via San Francesco. Ed è stata inaugurata stamattina nel Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa di Trieste, nel Palazzo delle Poste Centrali, la mostra Storia Postale del Friuli Venezia Giulia, che sarà visitabile fino al 14 luglio. Ritorna Note in Città, la rassegna musicale caratterizzata da concerti estivi itineranti che si svolgono negli scenari più suggestivi di Gorizia e dintorni. Alle 21, appuntamento a Palazzo de Grazia di Gorizia con il concerto della giovane chitarrista Xenia Liviero, che nel 2021, a soli 15 anni, si è aggiudicata il premio Conte Guglielmo Coronini al concorso Giovani Talenti di Gorizia e che stasera presenterà il suo primo lavoro discografico. L'assistenza tecnica è stata garantita a questa edizione da Mauro Cumin e da Mauro Ciccarelli, ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Alle 12:55:40 ci fermiamo, la nostra informazione torna in televisione col telegiornale in onda su Rai 3 alle 14 e poi alla radio col GR delle 15 su questa frequenza. Grazie della cortese attenzione da Daniele Lettige e da Antonio Cagliazza, buon pomeriggio e a risentirci. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.